24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano un nuovo taglio del rating da parte di Moody's, che questa volta riguarda banche e assicurazioni. Sono ore febbrili per trovare una soluzione alla crisi greca dopo l'ennesimo rinvio dell'Eurogruppo. L'Europarlamento vota per avere una sola sede, mentre l'allarme disoccupazione tocca Italia, Portogallo e Spagna. In esclusiva a 24 ore in Europa, il vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, per parlare di turismo. In primo piano oggi la nuova scure di Moody's sull'Europa. Due giorni dopo la mannaia sui rating sovrani, l'agenzia americana abbassa la valutazione o rivede le prospettive per 114 banche europee di 16 paesi. Tra gli istituti 24 sono italiani. L'azione riflette, secondo Moody's, la pressione combinata derivante dall'avverso e prolungato impatto della crisi dell'area euro, che rende il contesto operativo molto difficile per le banche europee. Praticamente tutti i grandi istituti di credito continentali sono finiti nel mirino. L'Italia detiene il poco consolante record di banche con un rating in revisione, ben 24, seguita da Spagna e Francia, tagliato il rating di 9 gruppi assicurativi, tra cui Generali e Unipol. Intanto sul fronte greco l'Eurogruppo starebbe puntando ad approvare lo swap sul debito ellenico nella riunione del 20 febbraio. Fonti del governo hanno rassicurato, trovati i 325 milioni necessari a sbloccare il pacchetto di aiuti comunitari da 130 miliardi. Facciamo veramente molto per cambiare la Grecia, ora sta a Bruxelles dare un voto positivo al pacchetto di aiuti per Atene. Così il ministro per lo sviluppo economico Michaelis Chrysokoidis. E gli economisti della BCE hanno tagliato la stima sulla crescita dell'Eurozona nel 2012, portandola a meno 0,1% da più 0,8%. Seduta negativa per le borse europee, che pagano l'ondata di declassamenti decretata da Moody's e le incertezze sul salvataggio della Grecia. L'apertura positiva di Wall Street permette comunque a Parigi e Francoforte di limitare le perdite, mentre a Milano il FTSE MIB chiude in rosso dello 0,87%. Seduta negativa per le borse europee, che ieri hanno pagato l'ondata di declassamenti decretata da Moody's e le incertezze sul salvataggio della Grecia. L'apertura positiva di Wall Street ha comunque permesso a Parigi, più 0,1%, e Francoforte, meno 0,1%, di chiudere attorno alla parità, mentre a Milano il FTSE MIB ha segnato un rosso dello 0,87%. A Piazza Affari la peggiore è Enel, meno 5,4%, che paga un report negativo di JP Morgan, seguita da Mediobanca, meno 3,8%, depressa dagli ostacoli sulla fusione Unipol-Fonsai, di cui Piazzetta Cucca è la principale creditrice. In cima al listino invece Montepaschi, più 2,3%, ancora brillante sulla cessione del 15% delle quote da parte della fondazione. Bene anche Finmeccanica, più 2,3%, e Prismian, più 1,5%, che festeggiano le commesse vinte rispettivamente in Israele e Gran Bretagna. Generali, meno 2,9%, paga invece le voci sul mercato di un possibile aumento di capitale. Ciò condina da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. L'Europarlamento ha votato per l'utilizzo di una sola delle due attuali sedi, Bruxelles e Strasburgo, accogliendo così un emendamento proposto dall'eurodeputato della Lega Nord Claudio Morganti. La costosa staffetta tra Bruxelles e Strasburgo è una questione molto controversa e oggetto di forti polemiche da anni. La Francia si è sempre opposta a rinunciare alla sede di Strasburgo. L'emendamento sull'ICI proposto dal premier Mario Monti costituisce un progresso sensibile, ad affermarlo il portavoce del commissario alla concorrenza Joachim Almunia. Il governo ungherese ha approvato la risposta alle contestazioni fatte dalla Commissione europea alle sue riforme e la invierà a Bruxelles nelle prossime ore. Lo ha reso noto il primo ministro Viktor Orban. Vacilla intanto la posizione del presidente Magyaro Schmidt, al centro di uno scandalo legato alla sua tesi di dottorato. Gigi Donelli. Il ruolo del presidente Schmidt è significativo soprattutto perché è visto nel contesto della costruzione, dell'edificazione del progetto politico di Orban. Schmidt è un fedelissimo ex campione dello sport, diventa presidente della Repubblica su decisione di Viktor Orban fino all'esplosione dello scandalo, appunto un paio di mesi fa, e ormai sembriamo davvero arrivati al dunque. Sembrerebbe dunque che Orban sia pronto a scaricarlo, cioè a rinunciare al sostegno che gli ha assicurato. La cosa in sé non è tanto da un punto di vista importante, da un punto di vista istituzionale, ma fa parte di tutta una serie di segnali dell'Ungheria, che come sapete è sotto pressione per una gravissima crisi economica e per una forte pressione da parte dell'Europa. Ecco, e poi c'è la manifestazione dei dipendenti della Malev a Budapest, la compagnia di bandiera messa a terra dai debiti, come sappiamo. Assolutamente. Si tratta per un prestito? Si tratta per un prestito a tutto campo, nel senso che la Malev si è rivolta, e se l'aveva già fatto in passato, dalla Cina alla Russia, ma nello stesso tempo si è scatenata una vera e propria battaglia tra low cost company, in particolare diciamo tra l'irlandese Ryanair e Wizz Air, che è una compagnia dell'Europa orientale con un forte capitale polacco. Effettivamente questo è uno dei paradossi dell'attuale crisi ungherese: si chiude la compagnia di bandiera, ma nello stesso tempo Budapest rimane uno scalo molto ambito. Una vicenda che, non possiamo non ricordarlo, ricorda molto quella dell'Alitalia. Per rendere i sistemi pensionistici comunitari più sostenibili, la Commissione europea propone di aumentare l'età pensionabile, sviluppare sistemi privati complementari, tagliare i prepensionamenti e reinserire i pensionati nel mercato del lavoro sfruttando il Fondo Sociale Europeo. L'indicatore di Europa 2020 mostra come nel 2010 circa un quarto della popolazione in Italia fosse a rischio povertà ed esclusione sociale, valore più elevato della media europea. Lo afferma il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini. In Italia lavora meno di una donna su due e solo il 30% al sud. In Portogallo la disoccupazione ha toccato il livello record del 14% nell'ultimo trimestre 2011, secondo i dati resi pubblici dall'Istituto Nazionale di Statistiche INE. Il dato è superiore alle previsioni del governo. Intanto in Spagna resta aperto il dibattito sulle riforme, in particolare quella del mercato del lavoro. Eusebio Val, corrispondente del giornale catalano La Vanguardia. Sì, naturalmente c'è preoccupazione, c'è opposizione, ma c'è anche il senso de che alcune di queste misure sono inevitabili. Ma il problema è che, per esempio, qui abbiamo parlato della riforma del lavoro. Questo è sicuramente necessario, queste riforme sono necessarie, ma non è questa riforma il problema numero uno della Spagna. Tutti sono consapevoli di questo. Noi paghiamo ancora le conseguenze di scelte sbagliate, di un'economia basata troppo sul mattone, di una manca di competitività, forse di un stato sociale troppo sviluppato, troppo generoso, che adesso non si può pagare. Ma il governo Rajoy ha un vantaggio se si compara con la situazione italiana. Il governo Rajoy ha cominciato a lavorare due mesi fa, ha una maggioranza solida in Parlamento, ha tempo per lavorare fino al 2015. Allora è una situazione diversa, e dà un po' di garanzia di che questi progetti possono andare avanti anche se c'è contestazione. Arrivano soprattutto dalla Germania i turisti che visitano l'Italia. È uno dei dati diffusi alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, in corso a Milano. Il turismo italiano è salvato dagli stranieri. Secondo i dati Istat, nel 2011 le presenze italiane, sia in alberghi che in altre strutture, è diminuita del 4,4% rispetto all'anno precedente. La situazione migliora decisamente se si guarda le presenze degli stranieri nel nostro paese. Nel 2011 sono aumentate quasi del 4%. E più stranieri vuol dire anche più soldi. Secondo la Banca d'Italia, fra gennaio e novembre del 2011, la spesa degli stranieri in Italia è aumentata del 6%. Quella degli italiani che vanno all'estero è cresciuta dell'1,6%. Ma da dove arrivano i turisti che visitano l'Italia? Innanzitutto dalla Germania, seguono Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Austria e Spagna. Se si guarda le percentuali di crescita, c'è un vero e proprio boom degli arrivi cinesi. In termini assoluti si tratta di numeri ancora limitati, ma in percentuali sono cresciuti del 30%. Crescono anche del 23% gli arrivi da Brasile e Australia. È una chance per il turismo di casa nostra, potrebbe anche arrivare dall'Expo 2015. Nel 2010 l'Expo di Shanghai ha attirato 73 milioni di visitatori, di cui 4 milioni e mezzo stranieri. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E Valentina Furlanetto ha intervistato il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani. Il nostro obiettivo è quello di far diventare ancora di più l'Europa obiettivo del turismo mondiale. E questo presentando in Cina, in Russia, in Sud America il marchio Europa, che rappresenta un valore aggiunto alle iniziative che vengono fatte dai singoli Stati membri e dalle differenti regioni. Una dura critica al comitato organizzatore delle Olimpiadi di Londra è venuta dal Consiglio Municipale della capitale britannica, che sostiene che Lockock gestisce senza alcun criterio di trasparenza la vendita dei biglietti per i giochi che la capitale ospiterà tra luglio e agosto. Il comitato aveva promesso che almeno un terzo dei ticket sarebbe costato non più di 20 sterline, ma non ha mai fatto sapere se questi ticket riguardano tutte le prove o solo quelle meno richieste, come il calcio. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie a Fabio Cantadori per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.